Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia di Filippo Astone. Avete appena sentito un pezzo della colonna sonora di Tempi Moderni, il mitico film di Charlie Chaplin, e questo è il pezzo dedicato alla catena di montaggio. Allora lì c'è l'omino che si affanna a lavorare su dei pezzi che scorrono velocemente. Ecco, erano così le fabbriche antiche. Adesso di fabbriche con l'omino che lavora sulla catena di montaggio ce ne sono sempre di meno e sono destinate a sparire. Avremo sempre di più fabbriche che seguono un modello che già esiste, che è il modello completamente automatizzato, dove abbiamo l'omino che guarda uno schermo. Quell'omino magari è un tecnico, è un laureato, guarda uno schermo dove vengono fatti i controlli e dove viene monitorata la macchina che fa tutto da sola. In futuro avremo le fabbriche buie, dove tutto fanno i robot, non c'è bisogno della luce perché il robot non ha bisogno della luce, e c'è un controllo remoto e la produzione è completamente automatizzata. Cari ascoltatori di Fabbrica 2.4, il mondo sta cambiando radicalmente, cambiano le fabbriche, cambia il lavoro, cambiano le vostre vite, e le fabbriche soprattutto sono interconnesse. È il meraviglioso mondo dell'Industry 4.0, dove l'interconnessione è totale, dove per stare sul mercato dovranno entrare tutte le industrie. Ma come ci si arriva? Esiste una roadmap? Il nostro ospite di oggi, che salutiamo, è Carmelo Mariano, partner di KPMG. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Lui è un consulente strategico e con lui in questa puntata diremo quali sono i passi che devono fare le aziende per entrare in questo mondo completamente nuovo, questo mondo dove non c'è più la catena di montaggio ricordata da il soundtrack che avete appena ascoltato. Allora, ci sono, Mariano, 5 passaggi di una ipotetica roadmap, di un percorso per arrivare alla fabbrica interconnessa. Ce le vuole dire? Sì. Innanzitutto è necessario riqualificare il parco tecnologico, il parco macchine, e completare il percorso di ammodernamento delle applicazioni tecnologiche. Insomma, bisogna investire nell'ammodernare le proprie tecnologie, cosa che non tutti hanno fatto finora. Assolutamente. Non dimentichiamoci che la quarta rivoluzione industriale poggia le basi sulla terza. Quindi bisogna. E la terza qual era? La terza era l'utilizzo dei sistemi di automazione, si è avuta intorno agli anni 60 con l'invenzione dei PLC, i sistemi di controllo e supervisione degli impianti. Allora, quindi investire in tecnologie e ammodernarsi, cosa che sembrerebbe banale, ma per la maggior parte delle aziende italiane purtroppo non lo è. Noi siamo un paese che nel suo complesso non investe. Negli anni della crisi quasi 25 punti percentuali di investimenti noi abbiamo persi. Bisogna investire, bisogna ammodernarsi, forse non basta lo sconto fiscale previsto dal pacchetto Calenda, perché per quanto sia importante, se non c'è la volontà di investire, se non c'è la determinazione a farlo, puoi fare tutti gli sconti fiscali che vuoi, no Mariano? Sì, assolutamente. Il piano Calenda serve senz'altro a dare ossigeno alle aziende per rinnovare il parco macchine, gli investimenti in beni strumentali, ma da solo non basta. Non dimentichiamoci che l'Italia ha accumulato in questi anni un gap significativo rispetto ad altri paesi, un gap di investimenti. Analisi, studi recenti stimano che servano circa 60 miliardi di euro in 10 anni. Quindi gli incentivi fiscali sono senz'altro utili, ma da soli non bastano. Bisogna trovare un modo per attrarre nuovi capitali, agevolare l'accesso al credito, per dare ossigeno alle aziende che vogliono investire nell'Industry 4.0 per crescere e continuare nel loro percorso di internazionalizzazione. Certamente. Quindi, insomma, primo passo, investire. Poi bisogna fare che? Qual è il secondo passo se vogliamo fare una roadmap di questo tipo? Ogni azienda deve definire un proprio percorso partendo dalla consapevolezza di quella che è la propria maturità digitale, da quello che è il proprio punto di partenza, e lo deve fare in maniera veloce, rapida. Bisogna avere poi il coraggio di superare la fase della sperimentazione. In Italia ci sono tante iniziative su questo tema, ma molte sono confinate all'ambito della prototipizzazione, dello studio di fattibilità. Bisogna avere il coraggio di superare questa fase di sperimentazione e passare alla fase esecutiva quanto prima possibile. Cioè, bisogna avere il coraggio di buttarsi. Assolutamente. Anche se uno deve buttarsi nel senso di entrare, però le aziende devono fare le cose con gradualità. Buttarsi nel senso di iniziare praticamente, poi è un percorso che ci vuole una decina d'anni, giusto? Sì, bisogna avere innanzitutto il coraggio di provare e non avere il timore di sbagliare. A questo servono sicuramente le sperimentazioni. È necessario passare alla fase esecutiva. Per farlo servono competenze di cui le aziende non sempre verificano l'esistenza. Servono nuovi tipi di competenze, nuovi tipi di professionalità. Lei prima citava, parlava di come sarà la nuova fabbrica e del piano degli investimenti previsti dal ministro Calenda. Non basta prendere una macchina a controllo numerico, bisogna prendere una macchina a controllo numerico, metterla in rete. Bisogna analizzare che tipo di dati, una volta la macchina messa in rete, mi può restituire e come questi dati io li posso utilizzare per innescare un processo di miglioramento continuo sulla macchina e sul mio prodotto. Posso poi anche ripensare il mio modo di lavorare, perché una volta che ho una macchina connessa posso spostare il focus dal prodotto al servizio, e chi produce per esempio macchine può passare dal vendere la macchina a vendere un servizio al proprio cliente. Certamente. E poi c'è anche un problema di competenze, che è, diciamo, il quarto passaggio. Sì, bisogna individuare questi i gap di competenze e colmarli con degli investimenti in formazione, formazione interna o formazione esterna. Non sempre le aziende possono avere le risorse necessarie o le competenze necessarie per colmare questo gap. Può essere utile a questo punto fare anche acquisizioni o joint venture. Pensi ad esempio a quello che sta succedendo nel settore automobilistico, nel settore automotive. La macchina sta cambiando forma, si parla di connected car, cioè di macchina connessa. All'interno della macchina c'è un sistema digitale che non solo controlla il funzionamento della macchina, le condizioni di sicurezza, ma mi consentono di fare degli acquisti, di controllare la mia posta elettronica. Ecco che l'innovazione è entrata nel settore automotive, trainata da chi produce. E perché lei me lo cita a proposito delle competenze? Perché un produttore che era abituato a pensare ad avere cicli di sviluppo del prodotto di 5 anni, si trova ora nella condizione di dover fronteggiare cicli di sviluppo che sono di 5-6 mesi. Per loro è un cambio di paradigma importante. Cosa stanno facendo alcune aziende? Le aziende automotive stanno rilevando alcune startup per portare in casa queste competenze. La Volkswagen ha comprato Gett, una società israeliana che fa sviluppo software, e ha deciso di portare queste competenze in un Innovation Hub che ha fatto a Berlino. Perché Berlino? Perché a Berlino ci sono tante università, c'è la possibilità di attrarre talenti freschi su competenze innovative, e soprattutto l'ha fatto a Berlino, lontano dalla sede principale, da Wolfsburg, perché non vuole contaminare con la mentalità vecchio stile quelle che sono le nuove competenze di cui ha bisogno per affrontare questo percorso. Ultimo punto? Ultimo punto. Bisogna facilitare, agevolare la formazione di cluster tecnologici. Cosa sono i cluster tecnologici? Sono delle aggregazioni su una base territoriale tra aziende che producono tecnologia, aziende che producono macchine che utilizzano questa tecnologia all'interno delle proprie macchine, aziende che utilizzano le macchine all'interno delle proprie. Quindi insomma i cluster sono dei gruppi che radunano aziende, clienti, fornitori, società di consulenza che lavorano insieme su determinate cose. Sì, se posso fare un paragone, il cluster consente un po' di recuperare il concetto di distretto industriale che è stato alla base dello sviluppo economico del nostro paese. Quindi aggregare su base territoriale tutti i soggetti coinvolti in un ecosistema che è più complesso. Allora, riepilogo velocemente quanto abbiamo detto con Carmelo Mariano di KPMG. Le aziende devono entrare nella nuova economia, nella quarta rivoluzione industriale, altrimenti chiudono. Non è che puoi starne fuori. È l'economia interconnessa, l'economia delle fabbriche buie, l'economia dell'industria 4.0. Loro da consulenti dicono che c'è un percorso che è: numero uno, investire in nuove tecnologie e finalmente darsi una mossa. Numero due, definire un percorso, giusto? Esatto. Numero tre, superare con coraggio la fase della sperimentazione, quindi insomma darsi una mossa. Numero quattro, lavorare sulle competenze. Sì. E numero cinque, cluster tecnologici. Cluster tecnologico. Ecco, un discorso collegato a questo è quello dei robot, dell'arrivo dell'automazione. Io volevo questa puntata lanciare l'argomento: che cosa pensate voi dell'arrivo dei robot in fabbrica, e invitare i nostri ascoltatori a dire la loro opinione, a mandare mail, a fare considerazioni alla mail fabbrica@radio24.it. Vi dico io che cosa penso dell'arrivo dei robot, anche sulla scia del grande dibattito che c'è stato in tutto il mondo quando Bill Gates ha lanciato l'idea della tassa sui robot. Vi ricorderete che Bill Gates ha detto: tassiamo i robot come fossero lavoratori umani, così potremmo pagare il welfare per chi non lavora più. Ora, è una provocazione che è assolutamente inattuabile. È inattuabile per due motivi. Il primo è che non ha proprio senso tassare l'innovazione tecnologica perché toglie lavoro, altrimenti avrebbero tassato anche i suoi sistemi operativi, addio Windows. Il secondo perché i robot consentono di portare le fabbriche qui e quindi sono favorevoli all'economia, aumentano la produttività. E se tu li tassi, corri il rischio che invece di incentivare l'arrivo delle fabbriche qui, qualcuno vada a mettere i robot in paesi dove non sono tassati. Va ricordato che l'automazione è quella che consente di tenere le fabbriche qui, è quella che consente di mantenere le fabbriche competitive, e quindi in qualche modo, invece di distruggere i posti di lavoro, salva i posti di lavoro, e aumentando il valore dell'aggiunto aumenta anche la base imponibile da tassare. È anche vero che purtroppo l'automazione mette fuori dai circuiti per sempre una classe di lavoratori. Ci saranno lavoratori soppiantati dalle macchine che non lavoreranno più, che saranno fuori, che staranno a casa, che magari persone con 50 anni che vanno a casa e non c'è proprio più niente da fare, non li ricicli più, non ci fai più niente, questi fino a quando muoiono sono a casa a girarsi i pollici. Quindi aumenta la ricchezza, aumentano i posti di lavoro, aumentano i posti di lavoro qualificati, ma una parte di persone ne soffre. Come si fa? Io sollecito i nostri ascoltatori a dire la loro, fabbrica@radio24.it. Prima di chiudere velocemente, Carmelo Mariano, che ne pensa lei di tutto questo? Concordo con quello che diceva lei. I robot, soprattutto i robot collaborativi in fabbrica, servono perché non solo sollevano le persone dallo svolgimento di attività ripetitive, ma soprattutto li mettono nelle condizioni di lavorare con maggiore sicurezza ed ergonomia nel fare tutte quelle attività in cui la manualità, la destrezza dell'operaio è ancora richiesta. E aumentano la produttività e quindi aumentano il valore. Va bene, scriveteci fabbrica@radio24.it. Adesso ci interrompiamo un attimo, restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci ancora in linea con Tempi Moderni, Charlie Chaplin che fa l'operaio che si affanna sulla catena di montaggio, spariscono le catene di montaggio, arriva la fabbrica completamente interconnessa, arrivano i robot. Prima della pausa vi abbiamo invitato a scrivere a fabbrica@radio24.it per dire la vostra sul tema dell'occupazione, l'occupazione che verrà modificata dall'arrivo dei robot. robot, io vi ho detto la mia, i robot aumentano il valore aggiunto, aumentano la produttività, creano ricchezza, consentono di mantenere qui le fabbriche, salvano le fabbriche, salvano i posti di lavoro, però c'è una classe di lavoratori che ne fa le spese, che sono quelli meno qualificati, quelli che magari hanno più di 50 anni e che vengono soppiantati dai processi automatizzati. Bill Gates diceva: facciamo la tassa sui robot. La tassa sui robot non è attuabile e non è nemmeno auspicabile, perché sarebbe un freno all'innovazione, una cosa assurda. Forse, a mio avviso, l'unico rimedio può essere il reddito di cittadinanza. Non vedo altre soluzioni, anche perché il reddito di cittadinanza aumenterebbe i consumi. Comunque, dite la vostra, fabbrica@radio24.it. Lei come lo risolverebbe questo problema occupazionale, Mariano? Innanzitutto occorre dire che i robot sostituiranno alcune tipologie di lavoro, ma dall'altro lato ne creeranno degli altri, perché sono richieste nuove figure professionali e quindi il saldo tra posti che vengono persi e nuovi posti che vengono creati non necessariamente vuol dire che ci saranno problemi dal punto di vista occupazionale. Questo in generale. Il problema è che non è che i nuovi posti che vengono creati vengono ricoperti da coloro che sono stati estromessi. Io ho seguito, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, un progetto della Ericsson al porto di Livorno. Oggi ci sono ancora nei porti camioncini con le benne che scaricano il container e lo mettono dalla nave al treno o da qualche altra parte. Un domani ci sarà un chip o dei sensori sui container, un chip sui camioncini, i camioncini saranno automatizzati e l'omino che muove le benne e la gru andrà a casa. Verrà sostituito da un robot. Ora, è vero che magari ci saranno più ingegneri, ma l'omino che magari ha 50 anni, ha 52 anni, ha sempre manovrato la gru o il camioncino con le benne, va a casa e non ha speranze, mica si mette a fare il programmatore o l'inventore di robot. Sì, c'è un tema di riqualificare quelle fasce di lavoratori. Si entra nell'ambito di temi etici di non facile gestione, cioè di non facile... Ma si possono riqualificare? Si devono qualificare. Ma uno che ha 55 anni ha sempre manovrato camioncini, che gli facciamo fare, povero uomo? Non possiamo neanche escluderlo semplicemente perché non ha competenze ingegneristiche. Bisognerà trovare dei modi. Io qui apro la discussione e ci scriveranno i nostri operatori. Ma torniamo all'Industry 4.0 e alla vostra roadmap. Voi avete cercato come consulenti di KPMG, e io lo ritengo interessante, di porvi la domanda concreta: che cosa si guadagna con Industry 4.0? E avete identificato 5 punti. Io ne vedo uno molto interessante che spesso è fuori dalla discussione, perché si dice bisogna modernizzarsi, bisogna andare verso i robot, verso la fabbrica 4.0, però non si dice mai che la fabbrica 4.0 consente di ridurre i costi. Sì, consente di ridurre i costi industriali. In contesti industriali in cui, chiamiamoli capital intensive, cioè in cui c'è grossi investimenti in macchinari e attrezzature, i sistemi di Industry 4.0, i sistemi di controllo e monitoraggio degli impianti consentono di ottimizzare le condizioni di funzionamento degli impianti, consentono di ottimizzare i processi di manutenzione e quindi anche di ridurre i costi di produzione. Ecco, ma se la fabbrica 4.0 consente di ridurre i costi, perché c'è ancora una certa ritrosia a fare investimenti da parte degli imprenditori? In fondo vengono ripagati quegli investimenti. Sì, bisogna vincere un po' la resistenza al cambiamento. Il motivo per cui alcuni imprenditori probabilmente non hanno investito è perché non hanno ancora compreso bene come l'Industry 4.0 si declina nella loro realtà aziendale. Quindi li può fare risparmiare? Assolutamente. Ecco, c'è un slide che ha fatto lei, che mi ha prima passato, prima di iniziare la trasmissione, che raggruppa dati da varie fonti, in principale la Bank of America, che dice appunto che la Smart Factory potrebbe ridurre i costi industriali tra il 18 e il 33%, giusto? Sì, questa è una stima fatta ovviamente dagli analisti. E poi potrebbe aumentare la produttività del 17%? Sempre secondo questo studio fatto. Ma lei lo condivide? È chiaramente uno studio fatto da degli analisti, probabilmente da una visione un po' troppo ottimistica del potenziale dell'innovazione, ma senz'altro margini per migliorare la produttività e ridurre i costi ci sono. È quello che dicevamo prima, si crea ricchezza perché aumenti la produttività, riduci i costi, quindi guadagni di più. Sì. E anche questo sì. Lo vedi con l'automazione e con i robot. Sì. Non dimentichiamoci che l'Industria 4.0 nasce in Germania da un progetto finanziato dal governo tedesco proprio per incentivare le aziende a investire nella manifattura tedesca. L'idea che c'è dietro è molto semplice. È vero che in alcuni paesi il costo della manodopera è molto più basso, ma l'efficienza, la produttività del sistema paese è più alta ed è più conveniente complessivamente investire in Germania piuttosto che investire in altri paesi. Cioè la fabbrica 4.0, per gli ascoltatori che ci seguono e che non lavorano in fabbrica, non lavorano nella produzione, per il signor Rossi l'arrivo del 4.0 che cosa comporta? Per il consumatore vuol dire avere più possibilità di scelta, avere più alternative, avere la possibilità di personalizzarsi completamente un prodotto. Cioè vuol dire che arriveremo che io ordino una macchina commissionando tutte le varianti al computer e dopo pochissimi giorni mi arriva, o anche dopo 24 ore? Sì. Vuol dire questo? Vuol dire che la fabbrica è stata messa nelle condizioni di non produrre sempre più lo stesso modello di macchina con gli stessi allestimenti, ma sapere che il signor Rossi ha scelto una macchina con un determinato tipo di allestimenti e che su quel preciso postazione di lavoro bisogna montare gli allestimenti che il signor Rossi ha richiesto. Invece torniamo alla cosa che lei aveva detto, che era molto interessante, sulla Germania. L'Industria 4.0 nasce in Germania e la Germania è anche il paese con il maggior numero di robot per lavoratore e dove c'è una automazione più pervasiva. Ora, se fosse vero il luogo comune stupido che i robot distruggono posti di lavoro e che tutti temono, in Germania dove ci sono più robot ci sarebbero molti poveri e disoccupati. Invece in Germania c'è il grado più intenso di automazione e abbiamo maggiore ricchezza, minore disoccupazione e salari più alti. E quindi questo dimostra che l'automazione in realtà porta dei vantaggi anche ai lavoratori. Condivido il suo pensiero, è un esempio che dovremmo seguire. Non dovremmo essere preoccupati del fatto che il robot sostituisce determinate attività che non verranno svolte dalla fabbrica, ma dal fatto che la tecnologia abilita recuperi di produttività, di efficienza e di crescita. Allora, ma secondo lei si arriverà a una maggiore diffusione dell'automazione nelle nostre fabbriche? Sono già abbastanza automatizzate? In Italia abbiamo una situazione, l'innovazione si è diffusa a macchia di leopardo. Ci sono alcune aziende che rappresentano delle eccellenze, che hanno una elevata maturità digitale e che investono in tecnologie di frontiera. Penso ad esempio alle aziende che producono macchine automatiche, macchine per il packaging o nel settore biomedicale. Sono aziende che sono riuscite a coniugare le loro competenze ingegneristiche, tipiche delle aziende che progettano prodotti complessi, con investimenti in software e stanno utilizzando il software per abilitare un nuovo modo di approcciare il cliente. Ecco, quindi a macchia di leopardo però ci sono ancora dei margini di miglioramento per la diffusione dell'automazione dei robot. Sì, perché ci sono al contrario tante aziende che non hanno completato o che non hanno alcune neanche iniziato il percorso di ammodernamento del primo parco tecnologico dei sistemi informativi. Cioè, mentre le prime investono in robot collaborativi, in sistemi di automazione intelligente, le altre stanno ancora pensando di introdurre un sistema informativo integrato o non hanno un sistema di reportistica che dia dei dati in tempo reale. Però devono provvedere a farlo, e questo è il primo punto della roadmap che ci siamo dati. Siamo in chiusura, sollecito il dibattito sui robot, fabbrica@radio24.it. saluto e ringrazio Carmelo Mariano, che sarà ancora nostro ospite. Grazie a lei. Arrivederci e a risentirci a domani ore 13:10.